Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, come state? Me lo potete raccontare all'824 0024. Noi intanto stiamo molto bene qua al fresco. Abbiamo Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi, la vedo dietro il vetro sorridere al telefono. Abbiamo come sempre il nostro sommario, andiamo a sentirlo insieme. Sono tutto rotto quando ossa, articolazioni e muscoli si lamentano. Gambe in volo, precauzioni e rischi. Fidati se vuoi ricevere fiducia. Quando muscoli, articolazioni e ossa si lamentano, voi che cosa fate? Che cosa pensate? Date la colpa agli anni, all'artrosi, al sovrappeso, alla sedentarietà o al contrario all'eccesso di moto? Allora, chiariamoci le idee. Oggi direi lamentiamoci, raccontiamo i nostri acciacchi, parliamo del nostro mal al ginocchio, della fatica che facciamo a muovere la spalla, del dolore muscolare che avvertiamo dopo una gita in bici o una partita a calcetto, di quando già al mattino ci sentiamo tutti rotti. Possiamo anche parlare, se volete, di cervicale, di mal di schiena. Insomma, apriamo il libro, come si dice, gli argomenti non ci mancano. Il numero verde è a vostra disposizione, 824 0024. Oggi cercheremo di scoprire la causa del nostro problema e soprattutto il modo migliore per affrontarlo. Parleremo infatti di terapie fisiche manuali, ma fedeli al nostro motto, meglio prevenire che curare, quindi vi daremo alcune indicazioni per prevenirle. In studio con me oggi ho una coppia di esperti, saluto subito il professor Felice Di Domenica, direttore del Dipartimento di Riabilitazione Ortopedica all'Istituto Gaetano Pini, buongiorno di Milano, e qui accanto a me sempre dell'Istituto Gaetano Pini ho il dottor Presti, che è fisiatra e posturologo presso il Gaetano Pini di Milano. Buongiorno anche a lei, dottore. Buongiorno a tutti. Allora, professor Di Domenica, si lamenti un po' anche lei, ecco, dia il buon esempio. Perché spesso i pazienti sono dei nostri confronti aggressivi, esagerano, eccetera, eccetera. Infatti una delle cose che dobbiamo imparare come medici è cercare di selezionare quello che ci viene detto dal paziente, perché molte volte c'è il paziente che esagera nei suoi sintomi e c'è invece il paziente che tende a diminuire, a sottovalutare. Allora l'esperienza nostra ci deve dare la possibilità di valutare quando un dolore è importante, quando è meno importante, quando è invalidante e quando non lo è. Questo è il primo passo, quindi da parte nostra dobbiamo cercare di imparare a riferire al medico il tipo di dolore che avvertiamo, sì, difatti, senza fare troppi sconti o senza esagerare. Dovrebbero anche i pazienti imparare a descrivere il loro dolore, non so, dire se il dolore è urente, se è fitto, se passa col riposo, se si intensifica di notte, se aumenta col movimento, eccetera. Cioè descrivere il dolore è una cosa difficile da parte del paziente, però per noi è molto importante. Se viene descritto in maniera corretta, noi riusciamo a comprendere se il problema è serio oppure no. Però quando noi avvertiamo dolore, quando ci alziamo la mattina e diciamo sono tutto rotto, classica frase, ho male qui, ma dove? Per noi è difficile capire se il dolore arrivi dal muscolo, dalle articolazioni, dalle ossa, dai tendini. Allora proviamo a dare una prima orientamento. Allora, dottor Lopresti, molto probabilmente il dolore, lo chiedo a lei che è fisiatra e posturologo, è di origine muscolare, se come dovrebbe presentarsi, quali caratteristiche ha? Beh, il dolore muscolare in genere si presenta sotto forma di contrattura localizzata, quindi peggiora con il col movimento. Sì. E, all'esame obiettivo che noi facciamo, è dolente alla digitopressione. Quindi voi uno schiaccia lì dove ha male, se fa male molto probabilmente il muscolo, mentre professor Di Domenica, sì, è probabilmente un dolore di tipo articolare. Articolare è l'articolazione, il dolore si presenta col movimento, spesso col carico, se è un'articolazione sottoposta a carico, come può essere la tibiotarsica o il ginocchio. E poi spesso si associa anche tumefazione dell'articolazione, quindi direi che il dolore articolare è abbastanza caratteristico, si può individuare, lo stesso paziente riesce a capire che è un dolore articolare. Io vorrei anche parlare di tendini. Hanno i tendini e i legamenti. Noi spesso li mettiamo insieme, ma sono. Vede, siamo preparati a essere benessere. Sono invece due cose diverse. Difatti, spesso fanno confusione tra tendine e legamento. Il tendine è praticamente la giunzione che c'è tra la forza muscolare e l'inserzione ossea. Il legamento invece è uno stabilizzatore dell'articolazione. Quindi sono due cose completamente diverse e vanno incontro a patologie diverse. E si lamentano in modo diverso, professore? Sì. È sempre il dolore? Il dolore è il primum movens, diciamo. Sì. I tendini danno un dolore, secondo me, più intenso, più localizzato, più trafittivo. Sì, una spada come. Bravo. Dicono così, mi sento un chiodo dietro la spalla, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi è più trafittivo, mentre il legamento ha un dolore se viene sollecitato. Per esempio un'articolazione che viene portata all'estremo movimento, allora può dare dolore, tipo la spalla o ginocchio. Abbiamo subito un SMS che ci scrive Damiano da Roma, metto gli occhiali, dopo aver giocato a calcetto ho sempre le caviglie gonfie e doloranti e mi fa male la pianta del piede, come posso evitarlo o comunque limitarlo? Il professor Di Domenica può darci una mano. Dire, il calcetto è il nostro miglior fornitore di pazienti perché praticamente si svolge attività in piccoli spazi, accelerazioni, e poi i terreni spesso sono duri. Il dolore che ha le caviglie è proprio legato a un sovraccarico. Sì. Spesso va valutata anche come l'appoggio del piede. Queste persone magari hanno bisogno anche di un plantare, perché magari hanno un appoggio in varo valgo del piede. Quindi fare, visto che parla il nostro, che ci ha mandato l'SMS, di fare una valutazione proprio del piede, dell'appoggio. Dell'appoggio, perché un esame molto semplice. È un esame molto semplice, si può fare. Sono analisi computerizzate oramai, Sale su questa specie di pedanina, vero? Brava, sì, brava. Sì, appoggia il piedone, i piedoni, o i piedini, e il computer elabora. Fa una specie di fotografia, la carta geografica del piede. Voi immaginate, cercate di capire dove appoggia bene e dove appoggia male. Questo è una cosa che fanno oramai quasi tutti gli atleti di alto livello. Tanto per parlare di rugby, noi lo facciamo negli atleti di. Ma anche chi non è atleta. Però, chi non è atleta è a male, perché i piedi ce li abbiamo tutti, no? Sì, i dolori non fanno differenze tra. Non guardano in faccia nessuno, noi li sistemiamo. E intanto, se volete lamentarvi, 800 24 0024, oggi è la trasmissione del mugugno. 349 238 6666, se volete mugugnare scrivendo. Una mela al giorno. E a volte, cari amici, i problemi arrivano volando, soprattutto se si viaggia nella classe economico-turistica e per tragitti lunghi. Lo spazio dei sedili è stretto, chi viaggia con le compagnie low cost lo sa bene, e restare ore e ore seduti può dare origine ad una serie di problemi. Però, attenzione, questo non è un invito a rinunciare ai viaggi, né a spendere un capitale per un upgrade livello. Voglio che voi partiate, come si dice, preparati e adeguatamente attrezzati. Quindi, in linea per darvi tutti i consigli del caso, è tornata la dottoressa Lidia Rottavender, presidente di Alta, Associazione Lotta alla Trombosi. Buongiorno dottoressa, bentornata. Buongiorno a voi, grazie. Dottoressa, allora, tutti volano, ma in particolare noi oggi a chi vogliamo rivolgerci? Ma intanto non è vero che la sindrome della classe economica colpisce solo chi viaggia in turistica, la verità è che colpisce anche chi viaggia in business, però sono meno numerosi i passeggeri, quindi il fenomeno è meno evidente, questo per rassicurare. Dobbiamo rivolgersi a tutti coloro che volano per un viaggio che duri almeno 6 ore e non soltanto a coloro che vanno in aereo, ma anche a coloro che hanno in programma un viaggio lungo in macchina, in pullman, in condizione molto scomoda. Ci sono persone che rischiano di più e persone che rischiano di meno, e quello di cui stiamo parlando è un rallentamento della circolazione del sangue nelle gambe, nelle vene delle gambe, che sono il punto più lontano dal cuore e che in alcune persone particolarmente predisposte potrebbe portare allo sviluppo di un trombo nelle vene delle gambe. Questa evenienza è piuttosto rara, però è piuttosto drammatica e può soprattutto essere tenuta sotto controllo e prevenuta. Alcuni rischiano di più, alcuni rischiano meno. Rischia di più chi ha già avuto un problema di trombosi alle gambe. Rischia di più chi ha un problema di vene varicose. Rischia di più chi è grasso, chi ha il grasso soprattutto sull'addome. Ovviamente rischia di più una donna in gravidanza per una questione di volume dell'addome. Rischia di più chi è sovrappeso, prende la pillola e porta della biancheria molto stretta. Quindi il consiglio è di non mettersi ad agitarsi girando per i corridoi dell'aereo, altrimenti le hostess poi si accoppano con noi. Non c'è bisogno, basta da seduti muovere roteandole le caviglie, il piede, fare degli esercizi di flessione del piede sulla gamba come se si volesse schiacciare e alzare un pedale, sì. Contrarre i muscoli del polpaccio, bere molta acqua durante il volo e soprattutto prima di partire vestirsi in modo adeguato, non portare mai gli stivali durante il volo e, ripeto, anche durante i lunghi viaggi in pullman o in automobile. Se siamo in automobile possiamo fermarci una volta ogni due ore per andare a sgranchirci le gambe, come si dice. Mi sembra che sia una situazione che non deve per niente allarmare, ma che deve essere tenuta sotto controllo. I sintomi gravi possono essere che all'arrivo ci si accorge che la gamba è gonfia, dolente, una gamba, non tutte e due, un dolore molto forte tipo crampo o addirittura un dolore di tipo pugnalata al torace. In questo caso si va, senza risparmiare, immediatamente in pronto soccorso. Dottoressa Rotavender, grazie per essere stato con noi. Partiamo più leggeri, insomma, come si dice, no? Partiamo più leggeri ma consci. Consci, ecco, questo mi piace. Buona giornata, grazie. A lei, buona giornata. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci dei nostri dolori e dolorini articolari, muscolari, causati da traumi, anni, cattive posture, ma anche eccessiva stimolazione o sedentarietà. Ho tantissimi messaggi da leggervi e inizio da alcuni che possono, secondo me, fornirci anche spunti interessanti. Allora, per una frattura ho avuto la gamba ingessata e il polpaccio non si è più ripreso, è meno tonico e mi pare anche meno forte, forse anche più piccolo. Ho 38 anni e sono sedentaria, ho fatto ciclo di riabilitazione. Dottor Lopresti, questo è un messaggio, lo manda Antonella e penso, l'ho selezionato perché ci permette di parlare del recupero muscolare dopo un periodo di ingessatura. Capita, no? Di dover portare un gesso. Innanzitutto ringraziamo Antonella per la domanda e mi ricordo che mio padre mi diceva sempre un detto antico: arto che non si usa si atrofizza. In realtà è proprio così, una prolungata immobilità porta ad una ipotonotrofia della muscolatura, cioè si riducono proprio le fibre muscolari e quindi per risvegliare questi muscoli in questi casi nel nostro dipartimento ad esempio utilizziamo molto la idrochinesi terapia, sì. Cioè c'è la possibilità di lavorare con i muscoli in scarico di gravità, quindi le articolazioni vengono alleggerite e i muscoli lavorano. È utile anche fare dei cicli di elettrostimolazione nelle prime fasi, sì. Quando poi il muscolo riprende il tono, per fare il rinforzo muscolare buona cosa andare in palestra e per i primi tempi essere seguito da un personal trainer in modo da ritornare in forma rapidamente. A proposito di elettrostimolazione, ci sono anche degli apparecchietti che si trovano, no, in vendita, insomma, da portare a casa, che si utilizzano anche un po' per scolpire i muscoli, vantano proprietà dimagranti. Ecco, vorrei capire, lei ha citato elettrostimolatori, io mi sono vista già, no, una serie di immagini che ho visto anche in qualche televisione privata e c'è questa massa che viene agitata un po', no, come una frittatina da queste macchinette. Funzionano o non funzionano? Io sono contrario al fai da te. Quindi questi elettrostimolatori possono essere dannosissimi se non usati da personale esperto. Negli ospedali o nei centri abilitati sono i fisioterapisti che utilizzano queste apparecchiature che sono a norme CE e che quindi sono garantiti. E cosa fanno nel muscolo, professor Di Domenica? Quindi la contrazione. Difatti, il discorso è che questi stimolatori, sì, vanno usati ma in un programma riabilitativo, cioè non puoi fare solo la stimolazione come Spesso viene, ecco, cioè fare solo quello significa faticare il muscolo, creargli anche dei problemi perché non ha fasi di recupero, eccetera, eccetera. Invece, se rientra in un programma riabilitativo, quindi ben guidato, ha senso fare. Ecco, il programma, infatti, lo dice la parola stessa, ha più, combina più tecniche, manuali, sì, fisiche. Professore Di Domenica, le affido, sì, Ugo. Il mio problema si presenta la sera quando mi corico a letto, la mia schiena va a pezzi, mi alzo e va meglio. Cosa devo fare? Allora, professore, proprio lei ci ha detto prima, dovete dire se il dolore appare col movimento, senza movimento, e Ugo, devo dire che è stato preciso, ci ha detto anche ci ha dato anche un dettaglio, la posizione. Lui, sì, è a riposo ma è a letto, perché? Ma, perché dorme, va a dormire, no, cioè, la domanda... No, questa è una, diciamo, riguarda una patologia minore della colonna. Questa rigidità da posizione è legata spesso a discopatie, non a ernie discali, perché l'ernia del disco invece è il contrario, sì, da sdraiato è più intenso il dolore, non riescono a riposare. Mentre la discopatia, quindi una patologia minore, diciamo degenerativa, può dare questo tipo di dolore, cioè dolore muscolare più che dolore, sì, osseo, per tornare, sì, al discorso nostro, che si attenua col movimento. Ecco perché poi noi a questi pazienti consigliamo come prevenzione la ginnastica. Ginnastica non vuol dire nulla, perché sono, sì, tantissime le tecniche, quindi una rieducazione posturale, una propriocettiva. Quindi la ginnastica, il movimento può migliorare questo tipo di disturbo. Dottor Lopresti, lei posso, proprio che è posturologo, fisiatra. Se posso integrare, dunque è molto importante che il nostro radioascoltatore valuti bene il suo letto, nel senso che un letto troppo rigido, un materasso troppo rigido può causare invece una lombalgia, e questo ormai è stato dimostrato da studi scientifici. Si ricorda invece che c'è stato un tempo, forse lei il no, famoso, ma noi... materasso ortopedico. Sì, e poi soprattutto addirittura facevano mettere l'asse sotto il materasso. La tendenza non è più così, adesso è bene usare delle doghe in legno e un materasso semirigido, possibilmente in lattice, in modo che segua le forme del corpo. Difficilissima la scelta del materasso, bisognerebbe portarsi, la porto lei la prossima volta che devo cambiare, perché si dicono si sdrai, lo provi, e sì, lo provo, ma 5 minuti dovrei portarlo a casa. Comunque, sì, andrei subito a un altro sms che è Alberto, mio figlio, 13 anni, da qualche settimana mi dice di aver dolori alle ossa. Io credo che siano invece le articolazioni che si allungano, i cosiddetti dolori di crescita, ci scrive Alberto. È corretto? Sto tranquillo. Dottor Lopresti, non tutti i ragazzi crescendo soffrono, nonostante i dolori di crescita siano abbastanza diffusi. Allora, ci aiuta a descriverli in modo che diamo delle indicazioni ai genitori che hanno figli in crescita, che magari si lamentano? Se posso approfittare sì, per dire il mio pensiero, manca oggi una figura fondamentale nel nostro sistema sanitario, che è il medico scolastico di una volta, che effettuava un importante screening nella popolazione giovanile. Quindi tutti questi dolori sono in genere dovuti a delle osteocondrosi giovanili, che sono delle malattie a cause sconosciute, nelle quali si verifica un'alterazione del processo di accrescimento cartilagineo e osseo. Però per rassicurare, tendono a evolvere spontaneamente verso la guarigione. Possono colpire, sono un po' come i denti, no? Quando spuntano fanno male, ma poi trovano la strada e vanno. Esatto, possono colpire ad esempio le ginocchia, nel caso dell'osgood-schlatter, che aumenta con l'attività sportiva ma regredisce con il riposo. Ecco, ma allora questi ragazzi che hanno dolori di crescita e che, a cui diamo un messaggio di rassicurazione, assolutamente, certo, passano meglio, certo, incrementare, li facciamo diventare sportivi, o diciamo tanto che hai male, fermati, professor Di Domenica? Ma per me facciamo diventare sportivi, perché questo tipo di dolore può essere gestito benissimo, come diceva il collega Lopresti, è una patologia che si risolve da sola e spesso è legata a sovraccarico del lavoro muscolare. E allora, a proposito di sportivi, non a caso noi abbiamo uno sportivo super, abbiamo in linea con noi Yuri Checchi. Ciao Yuri, che piacerone che ho. Ciao, grazie. Salutiamo anche noi volentieri, grande. Ecco, grande. Qua abbiamo, grazie, tutti ammiratori tuoi. Senti Yuri, qual è l'ultima volta che ti sei lamentato? Per dolori? Sì. No, se vuoi raccontarmi anche qualche altra... Io sono pronta ad accogliere qualunque lamento oggi. No, è che sto ancora aspettando questi dolori di crescita, purtroppo. Buono. Quindi mi sto lamentando che non li ho avuti ancora, quindi non perdo la speranza. No, ormai diciamo da diverso tempo, perché finita l'attività agonistica mi sono così un po' concentrato sui miei acciacchi e cerco di gestirli nel modo migliore possibile, quindi non facendo più appunto un'attività che stressa così tanto la mia muscolatura, i tendini eccetera, adesso va molto meglio, è da molto tempo diciamo che non mi lamento per i dolori. Senti, Iuri, io vorrei però chiederti un consiglio, perché molti dei nostri ascoltatori sono sportivi, amatoriali, ma insomma hanno proprio questa passione. Io raccolgo spesso, no, mail, chiamate di persone sportive che forse esagerano un po' e allora poi si trovano a fare i conti con i dolori. Allora, un consiglio dato da uno sportivo come te per evitare i dolori evitabili, che sono quelli che magari, no, uno si procura perché vuole strafare, perché non si riscalda. Ormai le ho imparate anch'io che non sono sportiva, ma se li dai tu non so come mai viene meglio. No, ma guarda, io ho fatto un'attività, come ti dicevo, agonistica fino a poco tempo fa, e che certamente non è consigliabile per stare bene con il proprio corpo, ma adesso io non posso stare senza sport e quindi ancora faccio questa attività, ma come dicevi tu, amatoriale, e è una cosa, se fatta nel modo migliore, è una cosa fantastica, ti fa star bene. Io penso che un consiglio migliore è quello di ascoltare il proprio corpo, perché è fondamentale sentire i segnali che ci dà e gestirli nel modo migliore possibile. E soprattutto non fare il cosiddetto fai da te, nel senso che magari su una programmazione anche sportiva o una riabilitazione per qualche problema, conviene davvero sempre, anche se si ha una certa esperienza diciamo sul proprio corpo, chiedere consigli a chi ne sa più di noi, insomma. È sempre meglio, secondo me, gestirlo insieme a medici, a fisioterapisti, sì, a persone che in qualche modo ci possono aiutare. Grazie Iuri per essere stato con noi, buona giornata. Saluti, grazie. Qua i tuoi fan ti salutano, Iuri, un bacio. Grazie. Ciao. A voi, grazie. Ma quanti bei lamenti, 824 0024, male qui, chiamateci, 824 0024, andiamo a Roma, c'è Alberto. Alberto. Sì, eccomi, salve. Buongiorno. Allora, io ho 25 anni, sì, e un paio di mesi fa, a fine aprile, mi sono rotto un menisco. Come ha fatto, Alberto? Vorrei saperlo anch'io bene, perché non ho avuto un vero e proprio trauma, è stato più che altro che ad un certo momento ho fatto un movimento molto brusco, mi sono piegato di colpo e da lì ho iniziato a sentire un dolore fitto e sordo al ginocchio, sì, e ho prenotato una visita dall'ortopedico e lui mi ha detto... È partito il menisco, una rottura... longitudinale scomposta del menisco interno destro. Mediale, allora, menisco mediale. Lungo la lunghezza. Sì, ho capito. E allora? E da allora io poi sono stato operato in artroscopia e da là è iniziato il mio calvario, perché ad oggi ancora io ho dei problemi, soprattutto sotto pressione, cioè nel momento per esempio in cui salgo le scale, le scendo, perché c'è stato poi anche un'infiammazione del tendine rotuleo durante la sorte è un po' si è accanita con Alberto, sì, professor Di Domenica. Sì, ma lei ha fatto riabilitazione, Alberto? Perché tanto il professor Di Domenica glielo chiede. Io la sto facendo tuttora, sto facendo sia ginnastica propriocettiva che di recupero del tono muscolare che era calato moltissimo, sì, soprattutto sul quadricipite, sì, e anche ultrasuoni. Ho capito. Sono al decimo giorno di ultrasuoni, ma io non ho ottenuto niente. Problemi. Ascolti, quando è che sei operato? Non ho... I primi di maggio. Primi di maggio, quindi siamo ancora. Ma se l'intervento è stato fatto in maniera corretta, lei recupererà di sicuro, perché anzi le ha tolto un problema con l'artroscopia. Può succedere che dopo l'intervento un'ipotrofia muscolare, in questi casi specie del vasto mediale, cioè che va, ci parli è il muscolo, scusi, è il muscolo che dell'interno della coscia, Mi capisco, è sì, quello che va allenato di più e che protegge la parte mediale del ginocchio, altrimenti se continua questo disturbo dovrà fare un controllo in risonanza per vedere com'è la cartilagine, perché qualche volta una sofferenza meniscale può dare qualche disturbo sulla cartilagine. Allora, Alberto ci dice che sta facendo un programma di riabilitazione, non sta vedendo i risultati in questo momento, anzi accusa dei dolori, specie quando sale o scende le scale, no? Sono, è un tipico dolore che viene, certo, quando qualche cosa non funziona adeguatamente. La riabilitazione è un capitolo molto importante, noi la trascuriamo un po' perché se, certo, vediamo gli effetti, allora la interrompiamo perché pensiamo di essere guarite, se non ne vediamo gli effetti la interrompiamo ugualmente perché male non ci fa bene. Allora, possiamo dare delle indicazioni a chi in questo momento sta facendo riabilitazione e capire, professor Di Domenica, quando funziona, quanto tempo ci mette? Capisco che varia a seconda dei casi, ma ecco, diamo delle regole generali, delle indicazioni per i nostri amici a casa. Ma diciamo che la riabilitazione funziona sempre. Il problema è se la fa bene o non la fa bene, perché ci possono essere errori o di eccesso di prudenza o errori di eccesso di carico. E ancora, diciamo che non bisogna sbagliare dovete sbagliare voi. Bravo. Diciamo che se non funziona spesso può essere colpa nostra. Ecco, esercizi, dottor Lopresti, durante la riabilitazione che procurano dolore, che procurano gonfiore, il paziente torna a casa e dice ma ha fatto lavorare tanto o male. È giusto o deve invece suonargli un campanellino d'allarme e dire forse ecco, questo non ha calibrato bene il lavoro per il caso mio? Noi seguiamo una regola nella riabilitazione che è seguiamo il non dolore, cioè gli esercizi non devono causare dolore. Se durante l'esercizio o ritornando a casa si avverte dolore, vuol dire che l'esercizio non è stato corretto ed eseguito in modo perfetto. Quindi in questi casi va rivisto il programma riabilitativo. Ecco, quindi un messaggio che mandiamo ad Alberta, che ci scrive: dopo le sedute di riabilitazione dovevo prendere un antidolorifico perché i dolori erano troppo forti. Quindi non si prendono farmaci, possono. Ma si dice al fisiatra, tra il fisioterapista, di comportarsi, ecco, di che seguire la regola del non dolore. Seguire la regola del non dolore. Oggi proprio che noi parliamo di dolore. Flavio ha bisogno di lamentarsi un po' e ha chiamato l'824-0024. Flavio. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Non si accettano lamenti per morose, eh? Ecco. Per il resto possiamo lamentarci di tutto. Vada. Ascolti, io quando vado a correre ho una specie di infiammazione sulla parte, sulla crista tibiale, però nella parte bassa, dalla metà tibia in giù, un dolore che è latente, che appena però sfioro fa molto più male. E si acutizza durante la corsa. Potrebbe essere? È una patologia, diciamo un disturbo che può colpire chi corre, si chiama la sindrome della loggia anteriore, si infiamma la fascia dei muscoli, probabilmente lei esagera un po', oppure forse va aggiustata la calzatura con cui corre, in modo che da sollecitare meno la gamba. Comunque questo è un disturbo che dovrebbe sparire quando lei smette di correre, cioè, non è che le continua dopo. No, continua a persistere, proprio poi fa male anche proprio a sfiorare la parte. E quindi allora c'è un po' di infiammazione, in questo caso riduca un po' i tempi di corsa e faccia un po' di fisioterapia, intendiamoci un po' di laser terapia di alta energia, può aiutarla molto in questa sindrome fasciale. Sarebbe anche utile, se posso integrare, fare un adeguato stretching della loggia anteriore e posteriore. Ecco, ma la vogliamo localizzare, che voi sapete esattamente dov'è, che io ho la mia gambetta qua. Questa loggia anteriore dov'è? Non davanti, per farmi toccare la gamba, perché poi se ti toccano la gamba di sotto qua, della rotola, tra al la rotola, sotto della rotula, eccola qua, la sentite anche voi, è lì di questa parte che ci stiamo occupando, dove loro dicono c'è la cresta tibiale, noi sentiamo qualche cosa di più duro. Allora, dottor Lopresti, lei diceva se posso integrare, sì? Sì, fare un adeguato stretching sia prima dell'allenamento e anche dopo, sia di tutti i muscoli dell'arto inferiore. Gian Piero da Roma, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, il mio problema riguarda il tendine d'Achille. Allora, io ho 48 anni, in questi ultimi 5 anni ho preso molto peso, e ora sto cominciando a entrare nell'ordine di tesi, di perderlo pure. Sì. Nel frattempo però... Il professore ride perché sa che... Perché professore? Perché è un po' il progetto, sì, è un programma che abbiamo un po' tutti. Giampiero, mi dica allora... Sì, no, io devo dire che sono sempre stato un praticante amatoriale di vari sport, quindi... però mi sono reso conto che per una volta combinato il danno serve una forte motivazione. Sì. A 48 anni non è più quella che poteva essere a 28 o a 30. Mm. Comunque io il mio problema riguarda il tendine d'Achille, nel senso che ultimamente ho i piedi, cioè mi senti i piedi in generale, i piedi molto indolenziti. Sì. Durante la giornata normale di lavoro e in particolare il tendine d'Achille. Sì. Volevo sapere cosa sente. Ma cos'è tendine? Questo tendine? Sia più preciso. Lo sente a dolore? Lei ci ha portato nel suo programma di dimagramento e poi ci parla del tendine d'Achille e sorvola sul tendine, che è quello che ci interessa oggi. Sì, no, io avevo fatto questa premessa per far capire. No, sì, no, certo, ma sto scherzando. Certo. Ma che cosa sente Giampiero? No, sto scherzando. Indolenzito, come se fosse... Un po' addormentato. Non sento un dolore vero e proprio, sento indolenzimento, così come se fosse stanco, non so. Sì, diciamo che stanco, ecco, mi piace questa Giampiero. Tendine stanco è una buona definizione. Direi che non è ancora una tendinite, se vogliamo essere così precisi, è però comincia a esserci una tendinosi, una piccola sofferenza della guaina. E ha ragione lei, forse è legato proprio al sovraccarico. Calando peso, probabilmente questo disturbo può diminuire. Però stia attento che se non fa nulla, questo disturbo che adesso è iniziale, le dà meno, può diventare un problema serio, cioè può darle una tendinite dall'Achilleo che è veramente dolorosa, bestia, ed è invalidante. Dottor Lopresti, un consiglio. È però un campanello d'allarme questo. Evidentemente prima riusciva a compensare il tutto, il nostro radioascoltatore, evidentemente è cambiato qualcosa adesso negli ultimi anni nella sua postura. Consiglio a questo punto di fare un test posturometrico computerizzato in modo di vedere le forze di carico, vedere cioè quanto carica nel retropiede, nell'avampiede e nella parte laterale del piede. Se si dovesse evidenziare un sovraccarico a livello del retropiede, si potrebbe utilizzare una piccola soletta di silicone in modo che permetta lo scarico, certo, un rialzo per intenderci, rialzo a forma di cuneo. Diventa anche un po' più alto, vanno molto di moda i rialzi. Vanno, no? Sì. I tacchetti interni. I famosi tacchi interni. Va bene, e quindi nell'attesa che di dimagrire diventa anche un pochino più altino. Eccoci, siamo tornati insieme, in linea con noi abbiamo il professor Roberto D'Anchise, primario di ortopedia all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Professore! Buongiorno a tutti, anche agli amici lì presenti. Ti saluto volentieri. Buongiorno professore. Avete scritto anche un libro, vero professor D'Anchise, insieme al professor Di Domenica? Abbiamo fatto un po' di cose insieme. Sì, sì, sì, sì. Allora, professore. Io volevo fare una breve osservazione. La riabilitazione è fondamentale dopo un intervento, però il messaggio che a volte il paziente non recepisce è che il terapista aiuta il paziente e cerca di aiutarlo a risolvere il problema, ma è lui, il paziente, è l'artefice della soluzione. Io dico sempre ai miei pazienti che il terapista è come un insegnante che spiega, fa fare i compiti in classe, ma deve dare i compiti a casa. Dico questo perché tante volte i pazienti dicono: le cose non vanno, ho fatto anche la fisioterapia, ma per conto suo ha fatto qualcosa? No, sa, ho fatto 10 sedute e non sì, sono andato. Quindi io ci tenevo ad enfatizzare per gli ascoltatori che la fisioterapia non è la panacea, non è che risolve, è il paziente che deve risolvere il problema con l'aiuto del terapista. Sì, ti ringrazio dell'intervento perché ha completato bene e con competenza quello che si sta dicendo stamattina. Ti ringrazio. Professor D'Anchise, quando viene a parlare del ginocchio? Quando vuoi tu. Prima dell'estate, grande puntatona sul ginocchio insieme al professor D'Anchise. Professore, un abbraccio, grazie. Arrivederci. Mi piace questa cosa qua. Gianluigi, dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Io ho chiamato perché sono caduto in bicicletta nel 2006, no? E avevo rotto l'acetabolo. Nel 2009, l'anno scorso, sono stato operato, mi hanno messo la protesi dell'anca, no? E diciamo che mi persiste il dolore, continuo a zoppicare, ho una gamba, la gamba sinistra dove si è rotto l'acetabolo, più piccola rispetto alla destra, benché io faccia molto sport, nella fattispecie vado in bicicletta, ed è l'unica cosa che mi è rimasta da fare, perché non posso più sciare, non riesco più a correre, praticamente sono limitato e zoppico molto. Io ho fatto fisioterapia, l'ho sempre sentita. Sto ma l'ha fatta ancora, come diceva il professor D'Anchise, da soggetto attivo, da solo a casa, oltre che naturalmente averla fatta in ospedale, certo, quella di routine dopo l'intervento. Sono andato anche ultimamente a fare un ciclo di fisioterapia, no? E mi hanno dato anche degli esercizi di stretching da fare. Io questi esercizi li faccio tutti i giorni e mi rendo conto che facendo lo stretching sto meglio, cammino meglio. Però rimane il fatto che io, facendo molto sport, diciamo faccio almeno 200 km a settimana in bicicletta. Però tanto. Sono tanti. Però va come una lippa. Gianluigi, sentiamo il professor. No, una lippa non vado più come una lippa. Però una lippina, insomma, 200 km. Sì, sono un diesel, nel senso che mi metto, vado, ma però ho, diciamo, questi problemi. E ho sempre una gamba più piccola. Più piccola, cosa intende? 2,8 cm in meno di. Ma sulla, diciamo, intende la coscia o la gamba? Intendo il quadricipite. Ho capito. E un'altra cosa volevo chiederle: i glutei. Scusi, è una domanda un po' forse troppo tecnica. I glutei, io sono stato operato non dalla parte posteriore, non i glutei. Sì. Ma di fianco, perché io purtroppo da bambino sono caduto in un secchio d'acqua bollente, mi sono bruciato tutti i glutei, mamma mia. E perciò ho dovuto essere operato, certo, sulla... lateralmente. Comunque così, ma è la via di accesso più certo. Perché ha chiesto informazioni sul gluteo, sulla chiappa, insomma? Perché per quello che può essere la mia esperienza, poi può darsi, insomma, il paziente non l'ho visitato, certo, ma può dipendere da un deficit del medio gluteo spesso, cioè far lavorare proprio il medio gluteo, che dà una stabilizzazione maggiore dell'anca, e poi sul quadricipite ovviamente lavorarci, ma lavorare in maniera selettiva, perché lei fa la bici, però probabilmente la spinta è simmetrica, invece dovrebbe lavorare di più sull'arto ipotrofico come spinta. Quindi dovrebbe fare un po' e un fare lavoro... un po' di anche ginnastica propriocettiva. Ecco, qual è la persona che può aiutare Gianluigi a capire, a organizzare un programma di ginnastica che abbia tutte le caratteristiche, tocchi tutti gli elementi importanti per restituirgli un tono muscolare adeguato? Ma sicuramente nelle prime fasi è il fisioterapista che deve dare le dritte e le indicazioni corrette. Poi, come diceva anche il professor D'Anchise, è importante un ruolo attivo del paziente, e se ci sono degli squilibri gravi ci sono anche dei posturologi che possono anche aiutare. Mettere un po' a posto la situazione. Andiamo a Alberto, che ci chiama da Rimini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma beato chiama dalla spiaggia? No, purtroppo no, chiamo dalla macchina, quindi non è proprio una beatitudine qui assolutamente. c'è caldo anche qui. In macchina si sta bene, ma quando si scende si accusa. Va bene. Io chiamavo per questo. Io gioco a tennis a livello più o meno agonistico, soprattutto ovviamente in primavera estate. Sì. E ho un problema alla schiena di una ernietta tra L5 ed S1, che devo dire la verità, con un fisiatra che ha avuto una intuizione banale, suppongo, di mettere dei tacchettini in plastica, in silicone meglio, ho risolto abbastanza, nel senso che non ho più, però... Ma dove li ha messi? Scusi, io non ho capito dove ha messo i tacchettini. In silicone nelle scarpe. Ah, nelle scarpe. Sì, quindi dei piccoli supporti, forse per scaricare, esatto, giustamente, esatto, no? Esatto. E devo dire, hanno risolto abbastanza, perché soffro di meno. Il tennis poi è uno sport controindicato per il mal di schiena, sicuramente. Certo. Però quello che ho da un paio d'anni, direi, mi si è accentuato quest'anno, sono dei dolori ai glutei. Sono stato tutti anche... e due i glutei? Si è manifestato al gluteo destro, anzi al sinistro, e quest'anno al destro. Okay. Al destro io una mattina, ma avevo fatto un torneo, per carità, ero affaticato, però dopo le partite non avevo nessun dolore. La mattina successiva io avevo un gran male, sono andato anche al pronto soccorso perché non riuscivo a... Senta, professor Di Domenica, ma questi glutei, io leggo anche i messaggi, ma sa che tormentano? Dovremmo fare una puntata tutta sul sui glutei. B. Sul lato B. Lo prendiamo a 360 gradi perché qua abbiamo tantissimi ascoltatori. No, ma i glutei sono importantissimi. E due, tutte e due, cose che mordono, sento il cane, un fracello. Allora, sto gluteo... Sono molto importanti perché sono degli stabilizzatori del bacino, servono per la, per il controllo della postura, serve per la deambulazione, quindi i glutei hanno una, al di là di quello che può essere la facile battuta, hanno una funzione molto importante. Nel caso del nostro giocatore di tennis, io dedicherei un po' di tempo anche al della ginnastica di rieducazione posturale per la sua colonna, cioè giochi pure, faccia allenamento, però dedichi una mezz'ora, non dico al giorno, ma 2-3 volte alla settimana per una ginnastica di rieducazione posturale, chiamiamo globale. Ci sono delle tecniche svariate, vanno da Pilates, dal Souchard, dal Mezzien. Scelga con il suo fisioterapista una quella che piace che di più al suo gluteo anche. E dire, no, beh. Allora, direi di dedicare un po' di tempo a questo. Allora io volevo darvi un consiglio di oggi di chiusura, è un fidati se vuoi ricevere fiducia, una riflessione che io vi invito ad andare ad ascoltare sulla pagina di Essere Benessere. Vedo Carmelo che ha tirato subito un sospiro di sollievo perché dice questa se no sfora. Allora, proprio giusto il tempo per ringraziare il professor Di Domenica e il dottor Lopresti per essere grazie stati con noi. Hanno attraversato una Milano bollente per essere qua in studio al fresco con me. Noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Intanto, buona giornata. Essere e benessere.